prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. La puntata di questa settimana della rubrica Prossimo Tuo dà voce ancora al Vescovo Claudio, appena entrato in diocesi di Padova a guidare la vasta comunità, più di 1 milione di abitanti, come sapete un'estensione che va dalle montagne del Bellunese fino al mare, passando per buona parte della pianura. Il Vescovo Claudio è stato per molti anni direttore della Caritas diocesana di Mantova ed è una realtà che ben conosce. Lui stesso ha ricordato nell'incontro mattutino con i giornalisti di aver conosciuto personalmente i fondatori della Caritas, i padovani, Monsignor Giovanni Nervo e Monsignor Giuseppe Pasini, recentemente scomparsi, l'ultimo appena pochi mesi fa. L'impegno nella Caritas dunque ha segnato gli anni di Don Claudio Cipolla e immaginiamo, lui stesso l'ha dichiarato nelle interviste, anche nelle dichiarazioni ufficiali, segneranno anche il suo percorso pastorale appena iniziato a Padova. E allora, proprio in riferimento alle attenzioni verso i più poveri, verso i più deboli, ecco alcuni passaggi della sua omelia nel giorno dell'ingresso. Rinnovo oggi di fronte alla Chiesa di Padova il mio impegno a seguire fedelmente e totalmente Gesù e il suo Vangelo secondo la misura della fede che mi è stata data e che chiedo di poter aumentare. Camminiamo insieme nello stile di Gesù, servo e povero. Anzi, voglio ringraziare fin da ora tutti i diaconi e i presbiteri che tanto hanno già testimoniato perché le nostre comunità restassero unite e vive nella fede. Chiedo loro di rinnovare all'inizio del mio servizio episcopale l'impegno ricevuto dal Signore di portare la lieta notizia del suo amore e della sua misericordia a quanti sono prigionieri del male e della sofferenza, ammalati, affamati, assetati, forestieri, nudi, carcerati. Insieme ce la faremo. Serviremo il popolo cristiano, promuoveremo la sua dignità e riscopriremo la gioia e l'importanza del nostro ministero. Ho coscienza che il mio servizio, che il servizio che mi è stato affidato, può trasformarsi in potere, ma sarebbe un tradimento. Per il peccato che limita e condiziona la nostra vita, rischiamo di vedere l'episcopato come una carriera. E non sarebbe strano che qualcuno ci sentisse dire chi è il più grande tra noi e che trattiamo secondo logiche mondane, non tanto nelle riflessioni teologiche e spirituali, quanto nello stile, nelle relazioni, nella quotidianità. Vorrei lasciarvi un segno. So che non è tutto e che non è sufficiente, ma sono certo che aiuterà me, dell'onestà del mio impegno di fronte a voi. Consiste nella promessa di non trattenere per me nulla di quanto mi verrà consegnato nel corso del mio servizio pastorale nella diocesi di Padova. Una specie di voto di povertà che metto di fronte a voi. Terminerò il mio servizio episcopale senza accrescere di un euro il conto corrente e patrimoniale personale, la cui gestione consegnerò ai nostri uffici. Oggi sono le scelte nel campo dell'economia che testimoniano le nostre priorità e a queste dobbiamo guardare perché la disponibilità e la gestione dei beni siano integralmente al servizio dell'annuncio del Vangelo. Noi dobbiamo parlare e discutere di come servire i poveri, come promuovere giustizia, come costruire fraternità nel nostro territorio e in tutto il mondo. Le nostre comunità saranno rifugi e asili di speranza per i più deboli. Non abbiamo da trattare di altre cose, non abbiamo tempo. La giornata missionaria mondiale ci spinge a sostenere le chiese povere, ad evangelizzare tutto il mondo, a servire ogni sofferente. E il Vangelo di oggi ci dice di realizzare la nostra missione con mezzi poveri, il primo dei quali è la nostra persona. Ma la giornata di oggi ci ricorda anche che c'è un annuncio da realizzare in mezzo a noi, proprio nelle nostre case tradizionalmente cattoliche. I fratelli vicini e quelli lontani sono ugualmente amati. Vi ricordiamo ancora una volta che l'intera omelia del Vescovo Claudio nel giorno dell'ingresso è a disposizione in versione audio e in versione video sul nostro sito bluradioveneto.it. La settimana prossima riprenderemo il cammino ordinario nelle attività della Caritas, nelle varie iniziative che sono in programma anche per le prossime settimane. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.